cosa ufa. Funkhaus Europa, Radio Colonia. Bentrovati su Radio Colonia, il magazine italiano di Funkhaus Europa. E buonasera da Filippo Proietti. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà. Follow the money, segui il denaro. È uno dei primi imperativi del giornalista d'inchiesta e ora questi giornalisti avranno un bel po' da fare con i cosiddetti Panama Papers. Si tratta della maggiore fuga di notizie di tutti i tempi che porta dritto a società offshore con base a Panama. E già sono spuntati molti nomi di politici e personaggi famosi. E da Panama andiamo a visitare un altro paradiso fiscale, uno dei più antichi, la città del Vaticano. E nella seconda parte parliamo del campionato che ieri potrebbe essere giunto a una svolta definitiva. E infine gli appuntamenti culturali. Ma noi iniziamo insieme ad Alex Britti con la sua Cinque petali di rosa. Sei nella notte più profonda o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda o nella mia carezza, sei il mistero del destino, o la verità del vino, nei tuoi occhi larghi d'alba o viali del tramonto. Sei medicina degli affanni, la regina degli inganni, e solo adesso me ne rendo conto. Stai all'inferno in paradiso, dentro il fango in un sorriso, nel piacere di un caffè preso il pomeriggio. Sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa, che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori e il ricordo dentro un vento caldo. Poi siamo come la bellezza, certe volte è maliziosa, certe volte si nasconde dietro un'amarezza. Sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa, che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori, il ricordo dentro un vento caldo. È ora di partire, prepariamoci a viaggiare, giriamo nei meandri di una luna da spaccare, prendiamoci di mira e poi facciamo pace, diamo un nome adesso a tutto quello che ci piace. Come sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa, e non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori, il ricordo dentro un vento caldo. E poi nella notte più profonda, o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda come la... come la bellezza. Europa. Il tema. Si tratta della più grande fuga di notizie di tutti i tempi e una sorta di miniera d'oro per i giornalisti investigativi di tutto il mondo. I cosiddetti Panama Papers, 2,6 terabyte di dati, che vuol dire milioni di pagine, che se qualcuno ne volesse stampare riempirebbero 700.000 libri grandi come la Bibbia. Pagine che tracciano il percorso di denaro nascosto in società offshore con un'unica sede legale a Panama, uno dei più efficienti paradisi fiscali di tutto il mondo. Ce ne parla Enzo Savignano. La storia è iniziata tra i lussuosi grattacieli di Panama nello studio legale Mossack Fonseca, da cui più di 11 milioni di documenti sono stati trafugati e inviati al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung. I giornalisti del quotidiano tedesco si sono trovati di fronte al più grande scoop della loro vita, come ha spiegato alla ARD Bastian Obermeier. Naja, das leak zeigt, wie sich eine Parallelstruktur etabliert hat in der Welt sozusagen, in der sich die mächtigen bewegen, in der sich aber auch sehr viele Figuren bewegen, die einfach was zu verstecken haben. Obermeier ed i suoi colleghi della Süddeutsche hanno subito condiviso le informazioni ricevute con i giornali e i giornalisti del Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo con base a Washington. 370 giornalisti di 70 paesi diversi stanno studiando milioni di documenti legali e stanno scoprendo lo schema di offshore e scudi fiscali creato dallo studio legale Mossack Fonseca. Mossack Fonseca è una delle più grandi law firm panamensi, cioè sono società che costruiscono le società offshore per conto dei loro clienti, che sono clienti internazionali che hanno tanti soldi naturalmente. Si tratta di avvocati, di esperti, di amministratori che vengono messi nei consigli di amministrazione delle società scudo, no? Le cosiddette scatole vuote, quelle che servono per evitare di comunicare i nomi dei reali beneficiari dei soldi che sono custoditi in queste società. Angelo Mincuzzi, giornalista del Sole 24 Ore, già nel 2015 aveva realizzato un libro inchiesta edito da Chiare Lettere con Hervé Falciani dal titolo La cassaforte degli evasori, la lista Falciani, in cui si parlava di paradisi fiscali come la Svizzera, ma anche di Panama. A Panama è molto semplice aprire una società, bastano 1.200 dollari, si registra la società, si pagano altri 300 dollari di tasse governative e poi si pagano qualche altra centinaio di dollari agli esperti di società come Mossack Fonseca. Queste società scudo, queste scatole vuote chiaramente, non hanno attività commerciali o attività industriali a Panama e quindi non pagano le tasse. Tra i reali proprietari dei conti correnti e delle società amministrate da Mossack Fonseca c'è Vladimir Putin. Secondo il Guardian, attraverso il suo amico di famiglia Sergei Rodulkin, ha aperto conti correnti a Panama, ma anche il presidente ucraino Poroshenko, il re saudita Salman, il neoletto presidente argentino Mauricio Macri e il premier islandese Gunnlaugsson, per cui il Parlamento ha già aperto una procedura di impeachment. Ci sono grandi personaggi dello sport come il pluripallone d'oro Lionel Messi e l'ex presidente della UEFA Michel Platini. Centinaia gli italiani, tra cui spiccano Luca Cordero di Montezemolo e l'ex senatore Marcello Dell'Utri. C'è anche un italiano residente a Berlino. Molti negano o rivendicano il diritto ad avere società offshore. Angelo Mincuzzi. Tutti noi possiamo andare a Panama, aprire con pochi soldi appunto una società ed esserne i titolari, piazzando uomini come quelli della Mossack Fonseca come amministratori, quindi come prestanome, per nascondere il fatto che noi siamo i veri proprietari della società. Quindi tutto ciò è legale. Ciò che può essere illegale è ciò che c'è dietro. Tra i clienti di Mossack Fonseca infatti ci sono anche i cartelli del narcotraffico, organizzazioni terroristiche, banche iraniane e della Corea del Nord colpite dalle sanzioni e altri gruppi sulla lista nera internazionale. Angelo Mincuzzi. Mossack Fonseca si difendono così: noi creiamo delle società, poi ciò che i reali clienti fanno con queste società non sono affari nostri e né noi possiamo essere ritenuti responsabili. Georg Mascolo, ex direttore dello Spiegel e noto giornalista investigativo, ha confermato il coinvolgimento di numerosi tedeschi. Aber es gibt zahlreiche Verbindungen beispielsweise zum alten Siemens Schmiergeldskandal und andere bemerkenswerte Vorgänge. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass wir sind nicht das Finanzamt, wir sind nicht die Staatsanwaltschaft. Das heißt, wir sehen, dass sich auch tausende Deutsche in diesen Unterlagen befinden, aber ob es sich beispielsweise Steuerhinterziehung handelt, können wir nicht überprüfen. Una cosa è certa, ci troviamo di fronte ad un'inchiesta giornalistica molto più grande della stessa Wikileaks. Angelo Mincuzzi. Verranno fuori cose molto importanti. Sono stati prelevati gli archivi di 40 anni di storia della Mossack Fonseca, 40 anni di affari offshore e quindi dentro c'è di tutto. E poi le magistrature, insomma, chi vorrà o chi noterà delle possibilità di reati comincerà a indagare. Allora, diciamo, questo vaso di Pandora si aprirà completamente. E hanno iniziato ad indagare alcune delle autorità fiscali dei paesi interessati, come quella di Panama, quella australiana, Nuova Zelanda, Israele, Spagna, in India e in Svizzera, mentre il presidente francese François Hollande ha promesso che ci saranno conseguenze giuridiche. Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urlo. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere non altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quegli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che vi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse sei l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Dimmi che cosa resterà. Non me ne frega se mi manca la morale, anche se vado con altre non vuol dire che non ci tenga te. Lo so che sono un po' egocentrico se parlo di me. Lasciami perdere se cerchi un'altra storia che cresce. Non sono un uomo vissuto, ma sono un uomo che vive, che si dimentica tutto ma si ricorda due rime. Io che mi fermo a sentire l'odore di un libro nuovo che poi non riesco a finire perché per tutto mi annoio. Non sono fatto per te, non sono fatto per loro, non sono fatto per viverti né per stare da solo. Con più gioielli di te ma meno classe, convinto che sarei strada, non mi cambiasse. Ma la vita non è un film, non c'è il lieto fine, nessun colpo di scena, nessuno divide la parte dove vedi tua madre mentre sorride, con quella dove stringi un ricordo fatto di spine. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che mi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Forse è l'unica ragione che non ci dividerà. E no, ma nessun altro è come te, come te, come. Ma nessun altro come me, come me, come. So che sei fatta come me, come me, come. Che nessun altro è come te. E no, ma nessun altro è come te, come te, come. Ma nessun altro come me, come me, come. So che sei fatta come me. Dimmi che cosa resterà. C'è imbarazzo per le vie del Vaticano, dove si è tornato a parlare del lussuoso attico del cardinale Tarcisio Bertone, un attico di 700 metri quadrati dove abita il porporato e che si è addirittura difeso dicendo al Corriere della Sera che ci sono almeno una trentina di cardinali che vivono in appartamenti anche più grandi del suo. Ora si parla anche delle spese di ristrutturazione di questo appartamento, pari a 800.000 euro. Gran parte di quei soldi sarebbero dovuti andare all'ospedale Bambin Gesù. La magistratura vaticana ora ci vuole vedere chiaro, ma come funziona quella che è l'ultima monarchia assoluta d'Europa? Marina Collaci è andata a fare una visita alla Città del Vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano è stato creato nel 1929 solo per dare indipendenza al Santo Padre. Ha appena 44 ettari di estensione. Però è la riprova che essere piccoli non significa essere insignificanti. Padre Ciro Benedettini, vice direttore della sala stampa della Santa Sede, si emoziona quando parla del più piccolo stato del mondo. E come potrebbe essere altrimenti? Il Vaticano, con i suoi 500 abitanti, è uno stato in miniatura, ma perfetto in tutti i suoi dettagli. A tutti gli organi che ha uno Stato, una commissione cardinalizia che forma il governo, a capo della quale c'è un cardinale con una segreteria, ci sono delle direzioni generali che corrispondono praticamente ai ministeri. Come un Playmobil, il Vaticano ha una fortezza, mura merlate, giardini, statue, fontane, una piccola stazione, una tipografia, un ufficio postale. Conia una sua moneta, ha i suoi francobolli che fanno la gioia dei collezionisti, una lingua ufficiale, il latino, una bandiera bianca e gialla con l'emblema araldico e un inno di Stato, opera di Charles Gounod. Parlando in termini politici, è una monarchia assoluta. Il capo però è anche il re, se vogliamo usare questa parola che certamente a Papa Francesco non piace. Anche i 110 soldati della Guardia Svizzera sembrano giocattoli. È dal gennaio del 1506 che sono responsabili della sicurezza del pontefice. Piume rosse ornano i loro cappelli, l'uniforme che pare sia stata disegnata da Michelangelo in persona è a strisce rosse, gialle e blu con le maniche a sbuffo e a volte indossano la corazza con l'elmo. Ma c'è anche una polizia civile, che è la gendarmeria. E la gendarmeria sono 130-140 persone. Allora su 450-500 abitanti sembrerebbe che il Vaticano abbia un corpo sovradimensionato e militare e di polizia, però questo si spiega perché non ho la cifra precisa della gente che ogni anno entra, però mi ricordo che un giudice faceva la cifra di 18 milioni che mi sembra un po' eccessiva, però insomma molto vicino alla realtà. Il Papa infatti è due volte monarca, regna sul piccolo Stato Vaticano, un'isola nel bel mezzo di una metropoli, Roma, ma allo stesso tempo è il capo di un regno assai più vasto, che non è territoriale né statale, ma esiste, conta 1,2 miliardi di fedeli ed è rappresentato dalla Santa Sede, che si differenzia dalla Città del Vaticano. Padre Ciro Benedettini. Sono ambedue che hanno un riconoscimento sovrano internazionale, sia lo Stato della Città del Vaticano, sia il governo centrale della Chiesa che ha a capo il Papa. Tutti possono visitare San Pietro e i musei vaticani, ma per entrare nella Città del Vaticano ci vuole un'autorizzazione. La frontiera è sorvegliata dalle severe guardie svizzere. Abito e lavoro qui, ma non ti fanno entrare se non hai la tessera. C'è un escamotage per chi vuole dare un'occhiata all'interno delle mura. La farmacia è aperta ai visitatori. Con la ricetta medica puoi entrare, però c'è da fare la fila perché è sempre pieno. E offre il vantaggio di vendere medicine di tutto il mondo e soprattutto esentasse, senza IVA, con uno sconto, cioè, del 25%. Ma ci sono 3-4 negozi all'interno del Vaticano che sono considerati un vero e proprio paradiso dello shopping, chiusi al pubblico però e aperti solo a chi è munito di tesserino, ovvero le 5.000 persone che lavorano per la Santa Sede. Il nome della boutique su tre piani è severo, Governatorato. Però. Ma è una cosa enorme dove ci sono le cose più belle che uno possa mai pensare nell'ambito del lusso. Non lo so, coperte di cashmere, orologi, gioielli. E tutto esentasse, quindi più economico. L'enorme supermercato si chiama Spaccio dell'Annona e non è da meno. Hanno una qualità, un assortimento di vini fuori dal comune. Da tutte le suore e preti che io ho visto che sono andati a comprare vino, capisco per quale motivo. Ma ci sono anche le pompe di benzina, esentasse e le sigarette. E se la farmacia serve più di 2.000 clienti al giorno, il giro di affari del tabaccaio vaticano raggiunge i 10 milioni di euro l'anno. Le pompe di benzina incassano 20 milioni, l'Annona, il supermarket, raggiunge i 21 milioni di euro annui. Padre Ciro Benedettini. Il Vaticano è lo Stato che ha il numero più alto di rapporti diplomatici con il mondo, quindi ovviamente c'è un gran numero anche di ambasciatori che bisogna anche in qualche modo così loro dare l'opportunità e ai dei servizi. Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire mi fermo intanto, tu prova ad ascoltare. Se chiudi gli occhi riesci ancora a immaginare che quello che ho da dirti in fondo non è una bugia. Ti cucirò un vestito nuovo addosso prima di scappare via, prima di andare via, via da qui, via da qui, via da qui, via da qui. Cosa poi ti aspetti di trovare di diverso da noi due? Se anche via, via da qui, via da qui, via da qui. Le domande io vorrei fare soltanto un passo ancora. Un passo dalla fine, lo vedi che non sono pronta, ti lascio qui la pelle mia, tu pensi che non sia abbastanza per non scappare via, per non andare via, via da qui, via da qui, via da qui, via da qui. Che cosa poi ti aspetti di trovare verso da noi due, se anche via, via da qui, via da qui, via da qui. Sei sempre lì che aspetti di indossare le mie scuse come fossero medaglie da mostrare al mondo intero, finito tutto adesso. Ti chiedo scusa, sì, ma sei sempre lì che aspetti di indossare le mie scuse come fossero medaglie da mostrare al mondo intero per provare a tutti senza incertezze, senza dubbi che è finito tutto adesso. Se proprio devo farlo adesso ti chiedo scusa, sì, ma parto. Restare qui non ha più senso. Se mi sussurri scusa, resta. Via, via da qui, via da qui, via da qui. E ancora qui ti aspetto. Radio Colonia. Le notizie del giorno. 19:26 minuti, queste le altre notizie di oggi. In Grecia è scattata l'operazione di espulsione dei migranti approdati sulle isole. Da Lesbo e Chios sono partite 3 navi con a bordo 200 persone in direzione Turchia. Ha preso così il via il piano di respingimenti concordato dall'Unione Europea e Ankara e duramente criticato da associazioni per i diritti umani. Sull'operazione è intervenuto il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Das sind internationale Organisationen, der UNHCR ist in der Türkei, arbeitet mit der Türkei zusammen. Mein Eindruck, ich war mehrfach in der Türkei, habe mir Flüchtlingseinrichtungen da angeschaut, aber ich kann nicht sagen, dass Flüchtlinge in der Türkei schlecht behandelt würden. Wir müssen natürlich kontrollieren, dass die internationalen Standards eingehalten werden, das ist unverhandelbar. Secondo l'accordo, la Turchia riprenderà tutti i migranti e i rifugiati, siriani compresi, che entreranno irregolarmente in Grecia, mentre l'Unione Europea in cambio ospiterà migliaia di rifugiati siriani provenienti direttamente dal suolo turco. Promessi ad Ankara inoltre 6 miliardi di aiuti, l'eliminazione del visto per i viaggiatori turchi e l'accelerazione nei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione. In Iraq, serie di attacchi jihadisti, è di almeno una ventina di vittime il bilancio di diversi attentati nel paese. A Basra, a sud dell'Iraq, un kamikaze si è fatto saltare in aria, uccidendo almeno 4 persone e ferendone una decina. A Nassiriya, 300 km a sud di Baghdad, un uomo si è fatto esplodere in un ristorante. Il numero delle vittime è imprecisato, mentre 2 altri attentati a nord di Baghdad hanno causato la morte di almeno 10 soldati. In Italia, il ministro delle riforme e dei rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, è stata ascoltata oggi dai magistrati di Potenza sulla vicenda dell'emendamento sull'estrazione di petrolio in Basilicata. Boschi è stata interrogata come persona informata sui fatti. L'inchiesta ha portato alle dimissioni del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che dovrà essere interrogata nei prossimi giorni. E mentre vengono interrogate 6 persone finite agli arresti domiciliari, il Movimento 5 Stelle passa all'attacco. Sentiamo Alessandro Di Battista. Renzi, Boschi, Guidi prendono ordini dalla Total, fanno favore ai loro datori di lavoro che sono petrolieri e banchieri e non portano poi sviluppo sul territorio. La vicenda prende le mosse da un'inchiesta della Procura di Potenza sul progetto Tempa Rossa, un campo petrolifero in Basilicata in cui risulta indagato per traffico di influenze illecite anche il compagno del ministro Guidi, l'imprenditore Gianluca Gemelli. Nei giorni scorsi è stata resa nota un'intercettazione telefonica con cui l'ex ministro avvertiva Gemelli della via libera del governo a un emendamento utile alle sue attività di imprenditore nei suoi rapporti con Total. In Sachsen-Anhalt, 3 settimane dopo il voto regionale, sono iniziate le trattative per la creazione di un nuovo governo. Esponenti di CDU, SPD e Verdi si sono incontrati a Magdeburgo per una breve seduta senza grandi punti di attrito, che fa pensare a una coalizione formata dai 3 partiti. Dalle scorse elezioni la CDU è uscita come partito maggiore, seconda forza invece la AfD. Il numero degli attacchi a centri di accoglienza per rifugiati rimane alto, a dirlo è il BKA, l'Ufficio federale per la repressione della criminalità. Nei primi tre mesi del 2016 sarebbero stati quasi 270 gli attentati. In gran parte si tratta di danneggiamenti, una trentina gli incendi. La maggior parte, secondo il BKA, è da ricondurre a violenza di destra. La cancelliera Merkel striglia un conduttore della televisione pubblica, Jan Böhmermann, giovedì scorso nel suo programma satirico Neo Magazine Royal, ha letto una poesia da lui stesso definita diffamatoria e indirizzata al presidente turco Erdogan. Il canale ZDF ha cancellato la puntata dalla mediateca. La censura, questa la motivazione, sarebbe dovuta al fatto che i contenuti della poesia non rispetterebbero gli standard di qualità della televisione pubblica. Angela Merkel, in una telefonata con il premier turco Davutoğlu, ha criticato la trasmissione come consapevolmente offensiva. E con questa notizia è tutto. Radio Colonia, il tuo programma su Funkhaus Europa. Lei, il sole dentro me, che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. La spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole. Sei il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. La spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole. Ogni tua parola porta dentro una canzone, vera melodia piena d'armonia. Nettare in un fiore rende dolce il tuo sapore. Scienza per magia, qualunque cosa sia. Sei il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. E ciò che sento un fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile da ovest fino ad est la mia voglia di te. È spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole. Passano le mode, le rivoluzioni, dei poeti restano sogni ed illusioni. Tu sei tutti i cinque sensi del presente, fra chi non ascolta, chi non sente niente. Lei è il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Esistono parole per descrivere la sensazione che scateni dentro me. Sfiora l'incredibile, ciò che fino a ieri era impossibile diventa all'improvviso raggiungibile per me. La pioggia dell'autunno non farà spegnere il fuoco, con la neve dell'inverno il suo chiarore si fa fuoco. La primavera ci risveglia poco a poco, l'estate ricomincia il nostro gioco. Il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile nel mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. È spinta incontrollabile che mi fa camminare un metro dalle nuvole. 19:33 minuti, siete su Radio Colonia sulle frequenze di Funkhaus Europa. Renzo Arbore è in tournée con la sua orchestra italiana. Questa sera, tra circa mezz'ora, l'unica data in Germania, Stoccarda, nella Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. Ormai Arbore si è messo nei panni dell'ambasciatore della musica italiana nel mondo e insieme ai suoi talentuosi musicisti, come li definisce lui stesso, porterà le più belle canzoni napoletane. E noi però l'ascoltiamo uno dei suoi più celebri brani, la sua famosa lode al materasso. La sedia è l'ideale per chi è tanto stanco e vuole riposare. È è giusta la poltrona per chi vuole far salotto e chiacchierare. Fantastico il divano per star lì sdraiati avanti alla TV. Ma il materasso, il materasso, il materasso è il massimo che c'è. Ma il materasso, il materasso, il materasso è la felicità. Meraviglioso il prato per guardare il cielo e mettersi a sognare. Bella anche la spiaggia per potersi addormentare in riva al mare. E ottimo cuscino se sul morbido la testa vuoi posare. E vengono i momenti che vai a sprofondare su un sofà. Dai paesini della Calabria ai sotterranei di Napoli, di questo e molto altro si parlerà in Germania questa settimana. Ce ne parla Elisabetta Gaddoni. Funkhaus Europa. Appuntamenti. Mercoledì a Berlino, nell'ambito della rassegna Primavera della letteratura, lo scrittore calabrese Gioacchino Criacco presenta il suo romanzo Anime Nere, di recente uscito nella traduzione tedesca. Dal libro è stato tratto l'omonimo film, l'anno scorso pluripremiato alla cerimonia dei David di Donatello. In una dimensione sospesa tra l'arcaico e il moderno, si svolge il racconto di tre fratelli che dal Sud America e dalla Milano della finanza sono costretti a tornare nel paese natale per affrontare i nodi irrisolti del passato. Sentiamo Gioacchino Criacco. Sono nato e cresciuto, ho passato tutta la mia adolescenza nella Locride, quindi ad Africa, nei paesini intorno all'Aspromonte. Quindi con molto dolore ho visto tanti ragazzi che avevano tanti talenti crescere e poi disperdere tutto. E quindi è anche una sorta di urlo di dolore per tutto quello che è successo e che si sarebbe potuto evitare. Quindi c'era un'esigenza forte di raccontare il mio mondo e di farlo per la prima volta da calabrese, perché sulla Calabria scrivono tutti, scrivono spesso a sproposito, spesso con stereotipi e spesso lo scrivono di Calabria, da Roma o da Milano senza averla mai conosciuta. Anime Nere, presentazione del romanzo di Gioacchino Criaco mercoledì alle 19 all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Sempre mercoledì, ma a Colonia, è in programma una conferenza di Enzo Albertini, profondo conoscitore della storia di Napoli e presidente dell'associazione Napoli Sotterranea, che da anni organizza visite guidate nei sotterranei della città partenopea. Lo studioso illustrerà come si sia formata nel corso dei secoli quella fitta trama di tunnel, cisterne e spazi nel sottosuolo della città, favorita dalla morbida pietra di tufo su cui è sorta Napoli. Enzo Albertini. Oggi, a distanza di oltre 2000 anni, contiamo più di 14.000 cisterne sotto Napoli, quindi che corrispondono ai 14.000 palazzi in superficie. Da tutto questo variano 100 chilometri a tutto greco-romano, quindi è un vero e proprio labirinto, un filo d'Arianna che è sempre collegato sopra sotto. Napoli Sotterranea, la conferenza di Enzo Albertini, mercoledì alle 19 all'Istituto Italiano di Cultura di Colonia. Ci spostiamo a Stoccarda, dove giovedì verrà inaugurata la mostra collettiva L'imprevedibile attimo quotidiano, frammenti di un presente già passato, con oltre 100 opere di 5 artisti contemporanei italiani: Laura Stasi, Michele Berlot, Diego Gradali, Giulio Giannotta e Bob Rontani. Le opere hanno come comune denominatore l'intenzione di immortalare la realtà, ovvero lo spazio metafisico in cui si svolge la vita. L'idea di base dell'esposizione si fonda quindi sulla rappresentazione di un frammento di tempo irrecuperabile e sulla rivelazione di una bellissima ma insignificante apparenza. L'imprevedibile inaugurazione della mostra giovedì alle 19 al municipio di Stoccarda. Passiamo a venerdì. Sempre a Monaco è in programma un convegno organizzato dall'Associazione Culturale Rinascita sulla violenza contro le donne. Parteciperanno l'avvocato Thomas Fricht, la psicologa Camilla Tucci e la sociologa Norma Mattarei. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Angela Rossi. Violenza contro le donne, riconoscerla, contrastarla e difendersi. Il convegno venerdì alle 19 nella sala 211 dell'Eine Welthaus di Monaco. E con questo vi abbiamo presentato solo una scelta dei principali appuntamenti italiani in Germania. La lista completa la trovate come sempre nel nostro sito funkhauseuropa.de. Cercate poi Radio Colonia oppure Italienisch. Attraggono e si uniscono. abbraccerò di nuovo per ricominciare. Ti aspetterò, ti scriverò, ti perderò ancora mille volte ancora. Ti scorderò, ti rivedrò, ti abbraccerò di nuovo per ricominciare. Questo era Max Gazzè con Mille volte ancora. E oggi in Italia si festeggia un compleanno speciale per quello di Francesco De Gregori, 65 anni per il cantante romano nato il 4 aprile del 1951. Una carriera la sua che negli ultimi tempi è ritornata alle origini, alle sue passioni giovanili. Bob Dylan è un disco dedicato al menestrello americano. Noi però ci ascoltiamo Ti leggo nel pensiero, brano del 2003 interpretato anche da Ron. Faccio a pugni con te, poi ti vengo a cercare, benedico e ringrazio e maledico il mondo com'è. E mi domando perché ti dovrei chiamare tutte le volte che passi e ti fermi lontano, lontano da me. Sarà come sarà, se sarà vero, sarà come sarà. Sarà che mi dirai vai avanti e poi nasconderai la fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu per trovarmi una stanza ed un letto in affitto, non mi servono più. Sarà che mi vedrai nascondermi durante il temporale e rialzare la testa e bestemmiare quando torna il sole. Sarà come sarà, se sarà vero, sarà come sarà. Che inciamperò da qualche parte e poi ripartirò da zero, però ti leggo nel pensiero. E chiedimi perdono per come sono, perché è così che mi hai voluto tu. Prendimi per il collo, prendimi per mano, che non mi trovo più. Torno a casa la notte e non mi lasciano entrare e nemmeno ci provo a chiamarti per nome e nemmeno ci provo a bussare, ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane. davvero sai pescare un uomo caduto nel mare. Sarà come sarà, se sarà vero, sarà come sarà. E mi vedrai davvero poco prima dell'alba, quando il buio è più nero, però ti leggo nel pensiero. Con il pensiero Europa. Lo sport. E siamo alla pagina sportiva. Salgono a 6 punti di vantaggio della Juventus su Napoli, che vede così allontanarsi il sogno dello scudetto. La Roma travolge la Lazio nel derby e chiude così anche il discorso per la Champions League, e noi ne parliamo al telefono con il nostro collaboratore sportivo Adalberto Scemma. Ciao Adalberto. E una buona serata anche a te, gli amici sportivi, come sempre. Beh, facciamo due conti, tre facili partite in casa, tre fuori, e c'è un calendario favorevole sicuramente a spingere la Juventus verso il quinto scudetto consecutivo. È un record, anzi sarebbe un record, che eguaglierebbe quello storico della Juventus dei primi anni 30, sono cinque, però formalmente anche i cinque gli scudetti consecutivi del grande Torino e dell'Inter, però con un distinguo, dicono soprattutto gli juventini. Nel primo caso ci fu l'interruzione del periodo bellico, nel secondo caso fu Calciopoli, come ricordiamo, ad assegnare a tavolino uno scudetto all'Inter di Mancini. Ecco, se poi soprattutto pensiamo all'inizio abbastanza disastroso del campionato, la Juventus è veramente a un passo da un'impresa storica, sei d'accordo? Ma direi proprio di sì. Pensa che la Juventus era undicesima in classifica, quindi staccatissima, e alla decima giornata. E determinante in quel momento è stata la scossa data da Buffon e da Barzagli agli anziani, ai coetanei in sostanza, prima ancora che ai giovani. Però ha avuto la sua importanza anche la solidità della società, che ha difeso Allegri, e anche le scelte di mercato, forse discutibili in quel momento, di fronte a una selva di critiche, ricordiamo Sacchi, che avevano investito soprattutto Mandzukic e Dybala, considerati inadeguati. Beh, da quel momento la Juventus ha realizzato 20 vittorie e un pareggio esterno a Bologna nelle ultime 21 giornate, ed è una rimonta quindi irresistibile. E il Napoli è stato tradito ieri anche dai nervi. Quali sono state le colpe? Beh, guarda, intanto l'espulsione di Sarri e di Higuain ha certificato, direi, le difficoltà del Napoli a reggere in questo momento la pressione. Però non parlerei di colpe specifiche, ma di limiti soprattutto. Ecco, il Napoli è rimasto a lungo in corsa per lo scudetto dopo aver fatto vedere, secondo me, il miglior gioco del campionato, sicuramente il più spettacolare. Ha pagato poi, come era prevedibile, una rosa inferiore tecnicamente a quella della Juventus, e anche l'assenza del turnover, e qui è magari una scelta negativa di Sacchi. Hanno giocato sempre gli stessi, Jorginho, Allan e Goulam sono sfiniti in questo momento, e anche Higuain sembra ormai all'osso, ha ceduto di nervi anche per questo, direi, oltre che per la convinzione di aver subito un'ingiustizia da parte dell'arbitro. Beh, il resto poi lo ha fatto, se vogliamo, un calendario che ha visto la Juventus sempre in anticipo rispetto al Napoli, costretto il Napoli anche ieri a giocare a Udine all'ora di pranzo. La Roma è ora a 4 punti dal Napoli, può rappresentare un'insidia per il secondo posto? Ma secondo me sì, ecco, la Roma in questo momento è lanciatissima, ieri ha stravinto il derby provocando l'esonero di Pioli, è la prima volta che un tecnico laziale viene esonerato dopo un derby. Beh, in più c'è anche un calendario favorevole, visto che la Roma dovrà ricevere proprio il Napoli all'Olimpico. Spalletti ha ampi meriti, si è assunto però una bella responsabilità, se pensiamo alla maniera indolore, risultati alla mano, con cui è stato anche fortunato, alla maniera con cui ha liquidato Totti e De Rossi. Ed è stata una giornata disastrosa sia per l'Inter che per il Milan. Come te lo spieghi? Ma io, guarda, ti offro una spiegazione sintetica, quindi programmazione errata da parte dell'Inter, che ha affidato a Mancini un progetto costosissimo, fallito poi all'atto pratico, e mancanza di programmazione specifica invece da parte del Milan, con il rischio, e vedrai che sarà così, che a pagare sia solo Mihajlovic. Il tutto, direi, in una giornata che, dopo l'addio di un personaggio indimenticabile come Cesare Maldini, un vero signore, doveva concludersi questa giornata in ben altro modo, certo non con un ritiro punitivo. E cambiamo pagina. In Formula 1 domina la Mercedes, luce e ombre da parte della Ferrari. Ci sono dei margini per un recupero? Ma intanto, guarda, la Ferrari sta pagando in questo momento un prezzo elevato alla sperimentazione, e direi che fa bene a usare in questa fase, puntando a colmare il gap che esiste nei confronti della Mercedes. Fa bene anche Rosberg, peraltro, a utilizzare una tattica difensiva, prendendosi pochi rischi e badando soprattutto a controllare la gara. Comunque il bilancio della Ferrari al momento è in bilico, positivo se pensiamo ai due podi e negativo invece se consideriamo i due ritiri. E passiamo alle due ruote, il MotoGP. Ieri in Argentina è successo di tutto, tra cadute e ritiri. Nel finale si è rivisto sul podio Valentino Rossi. Che scenari prevedibili ha questo mondiale? Guardiamo subito la classifica: Marquez, Rossi, Pedrosa e Lorenzo sono sempre i soliti, i protagonisti sono sempre quelli. Beh, mettiamoci però anche Dovizioso, che ha pagato ieri l'errore del solito Iannone, che è il secondo errore in due Gran Premi, pesante. Quindi, se analizziamo le moto, le Yamaha sembrano superiori alle Honda e con le Ducati però possibili outsider, però è un'analisi da valutare, perché Valentino per esempio quando ha cambiato moto è calato subito di tono, quindi mondiale aperto e il copione ancora una volta direi che non cambia. Ad Alberto Scemma grazie per gli aggiornamenti sportivi, alla prossima settimana. Certamente, una buona serata come sempre a te e anche a tutti gli amici sportivi in ascolto. E Radio Colonia si ferma qui. Io ringrazio Cristiano Cruciani che ha curato la trasmissione di oggi. Da Filippo Proietti una buona serata e noi ci risentiamo domani. Si attraggono come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole. Che rumore fa la felicità mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, quanti spigli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri, e vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore, che amore fa la felicità. Ferme senza vento, bestemmiando al firmamento, mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta. Appassionato. Wie ein Mashup von Kusturica und Tarantino. El Jawala aus Freiburg lieben den Genre Clash. Easy go, I was never looking for something in particular, anything that leaves me sore. In between the monsters, keep chasing all my fear. I won't let them eat me, I won't let them near. Doppelte Saxophon-Power und massive Dance-Beats. Funkhaus Europa präsentiert El Jawala. Am 13. April im Bahnhof Langendreher in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.